Dani, che cos'è Neurogreen? No. Ah, Neurogreen. Urgenza, unità, utilità. 3 U, così. E poi un modo di essere gassoso, diverso, non competitivo, semplice essere insieme agli altri senza dover dimostrare niente, dover andare da qualche parte. Siamo qui e siamo lì. Tu come ci sei finita dentro Neurogreen in questo party stasera? Ci sono finita da varie dimensioni della mia esistenza che si hanno trovato una convergenza qui, e ho trovato tutti gli ingredienti che mi interessavano della mia stato di consapevolezza attuale, che è sempre migliorabile, però insomma sicuramente l'ambiente mi sembra, e l'ambiente, l'umanità mi sembrano le cose fondamentali. La politica fa schifo, cioè va bene, mi piace, poi Alex... Neurogreen fa politica. Ma tutto è politica. Ogni gesto è politica.